Siamo lodati Gesù e Maria. Dunque, questa sera con l'aiuto dell'Immacolata, ecco, approfondiremo la figura biblica di Abramo. Allora, la volta scorsa vi ricordo un po' il quadro biblico che abbiamo fatto e, come vi accennavo, è bene affrontare una serie di figure significative. Leggere tutto l'Antico Testamento non è possibile, quindi penso che la cosa migliore sia affrontare o alcuni personaggi scelti o alcuni temi scelti, diciamo di quelli anche un pochino più significativi anche dal punto di vista esistenziale. Vedremo che Abramo è una figura assolutamente primaria. Nella preghiera eucaristica numero 1 viene ricordato Abramo nostro padre nella fede, come vedete nel sottotitolo della slide, e ci sono alcune figure molto molto significative, ci sono alcuni episodi veterotestamentari molto significativi. Io non so quanto tempo impiegheremo in questo nostro percorso, sinceramente non lo so, tanto non è che ci abbiamo fretta, se non ce la facciamo con un anno lo faremo per 2 anni, però ci sono tanti episodi e tanti argomenti da approfondire, ripeto, non soltanto per motivi culturali, ma innanzitutto per comprendere meglio l'Antico Testamento. Ci sono alcuni episodi di cui tutto l'Antico Testamento è pieno, specialmente riguardanti proprio il Pentateuco, che è il primo blocco di libri che ci troveremo ad affrontare, ma anche per le risonanze esistenziali. Abramo è una catechesi vivente, come vedremo questa sera, ed è un punto di confronto anche molto importante per la nostra vita interiore e quindi merita di essere approfondito. Quindi per ognuno di questi personaggi chiaramente li situiamo, quindi Abramo, noi stiamo dentro il libro della Genesi, prima di Abramo è successo qualcosa, Abramo compare al capitolo 12 del libro della Genesi. Cosa è successo prima, quindi brevemente, che succede prima? Allora, nei primi 2 capitoli del libro della Genesi abbiamo la descrizione della creazione. Sono capitoli abbastanza popolari, nel senso che almeno a catechismo o durante le veglie di Pasqua, in qualche circostanza ci siamo confrontati. È ovvio che sarebbe importante confrontarsi con tutti, ci sarebbe un lungo discorso da fare sul primo capitolo e sul secondo capitolo. E dopo veramente ci vogliono 20 anni per fare tutti quanti gli incontri sull'Antico Testamento, quindi tanto per situarci, perché Abramo, e già con Abramo vedremo, si ha, e già con Noè, una sorta di nuova creazione, quindi di un nuovo inizio, quindi è bene vedere quello che precede. Quindi c'è la creazione e poi c'è, nei capitoli dal 3 al 7, nel capitolo 3 c'è il peccato originale, i capitoli 4, 5, 6 e 7 sono la discesa, come dire, impicchiata dell'umanità, cioè verso una corruzione, una degradazione somma, tant'è vero che c'è un culmine nel capitolo 7, dove Dio dice mi pento di aver creato l'uomo, addirittura, quindi un'espressione molto molto forte che fa riflettere a quale grado è raggiunta la degradazione dell'uomo. Nei capitoli 8 e 10 compare Noè e c'è la grande purificazione, cioè l'umanità è degradata, è corrotta, quindi Dio fa piazza pulita del male, ovviamente non per la distruzione ma per la ricostruzione, e contrae con Noè una prima forma di alleanza, ecco, l'alleanza dell'arcobaleno. Quando entra nell'arco dice guarda, quando vedrai sorgere quell'arco colorato che congiunge la terra e il cielo, ricorderai che io comunque sono vostro amico e non voglio la vostra distruzione ma la vostra conversione. Tutti quanti conosciamo il diluvio universale, Noè sale sull'arca, lui e con alcune categorie scelte, diciamo così, di ogni razza o genere, diciamo così, animato della terra, c'è il diluvio, tutto viene raso al suolo tranne i figli di Noè. Al capitolo 11, subito dopo Noè, c'è un altro avvenimento problematico, che è appunto la torre di Babele. Quindi l'umanità, nella sua protervia, pretende, e praticamente c'è una sorta di riproposizione del peccato originale. Il peccato originale era il tentativo dell'uomo di diventare come Dio, fondamentalmente. E nella torre di Babele facciamo una torre che arrivi fino al cielo, quindi c'è un fenomeno analogo. Dio cosa fa? Così come aveva risposto col peccato dell'uomo, col diluvio universale, risponde alla torre di Babele con la confusione delle lingue, e gli uomini cominciano a non capirsi più gli uni con gli altri. A questo punto, finisce il prologo e comincia la storia di Abramo. Questo è il mondo di Apple, questo qui è un mondo magico. Quindi capitoli dal 12 al 25 del libro della Genesi, che adesso andremo a vedere insieme. Allora, vedete quell'immagine di Abramo che esce dalla terra di Ur. Adesso a questo punto cominceremo a leggere alcuni brani biblici. Allora, la prima sezione dei brani riguardanti Abramo si può, come dire, definire dalla chiamata all'alleanza. E vedremo adesso insieme, perché adesso cominciamo a leggere un pochino di passi biblici. Chi ha la Bibbia la può tranquillamente aprire, io li leggerò da qui. E cominceremo a dare una lettura di alcuni passi significativi e che sono poi da commentare. Primo fra tutti quello sulla chiamata di Abramo. Che è questo? Ci vedete bene? Allora ve lo leggo, sono i versetti da 1 a 7. Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram, attenti al nome, non è Abramo, è Abram, partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot, che era il nipote. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Carran si trova nella terra di Ur, più o meno l'attuale Iraq. Iraq, Iran, insomma quella zona lì dell'Asia, neanche più tanto minore, quella quasi l'Asia maggiore. Comunque, Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello. Attenzione al figlio di suo fratello, perché più avanti nel libro della Genesi Abram chiama Lot fratello. Il fatto che Abram chiami Lot fratello, questo ve lo dico per i testimoni di Geova, è uno degli argomenti biblici con cui si confuta il fatto che Gesù aveva quattro fratelli, perché tra ebrei fratello era un termine che non si usava soltanto per i fratelli di sangue come fra noi. Vedete qui, Sarai e Lot figlio di suo fratello, bene? Però più avanti Lot sarà chiamato fratello mio. E tutti i beni che avevano acquistato in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i Cananei. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Ecco. Allora, questo episodio è molto significativo, perché ecco, ci fa riflettere su un primo punto fondamentale. Abramo viene chiamato da Dio e viene chiamato, ecco, è un brano ripreso dalla lettera agli ebrei, per esempio nel Nuovo Testamento: per fede Abramo partì chiamato dal Signore e partì, attenti, senza sapere dove andava. Primo atto di fede, voi dovete pensare che stiamo, vi ricordate le date, nel 1850 avanti Cristo. Nel 1850 avanti Cristo le popolazioni erano fondamentalmente e tutte quante le economie basate sull'allevamento e sull'agricoltura, non era come oggi, cioè lasciare la terra era la morte di una persona, era lasciare ogni forma di sicurezza, tutto, in più per ignota destinazione, perché la terra di Canaan era grande, sì, dove, come. Cioè, quindi Abramo fa questo, vedete lo schema: vattene dalla tua terra, dalla casa, verso il paese che ti indicherò, se farai questo farò di te un popolo grande, benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi c'è una chiamata di Dio a cui è legata una benedizione, una chiamata che esige una risposta che comporta dei sacrifici grandi, non piccoli, da parte del chiamato. Quindi capite subito che compare la prima dimensione fondamentale, poi alla fine concluderemo con qualche piccola nota catechetica, della fede, che la fede è anzitutto una vocazione. Il secondo aspetto che compare è quello della benedizione. Quindi Abramo parte, a un certo punto il Signore torna, il Signore tornando gli dice alcune parole, e leggeremo adesso insieme dal capitolo 14, versetti da 17 a 20. Eccolo qua. Ci vedete anche così? Io devo passare a schermo intero. Quando Abramo fu di ritorno, lo vedete? Passiamo a schermo intero. Va meglio così? Allora, quando Abramo fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè la valle del re. Intanto Melchisedec, attenti a questa figura, il re di Salem, offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo, e benedisse Abram con queste parole: sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. E gli diede a lui la decima di tutto. Allora, sicuramente avrete sentito parlare di questo Melchisedec, se non altro nella preghiera eucaristica 1, il sacrificio di Abramo nostro padre della fede e l'offerta pura e santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote. Di Melchisedec viene molto parlato, si parla molto nella lettera agli ebrei. San Paolo spiega come il sacerdozio di Gesù sia da leggersi alla luce del sacerdozio di Melchisedec, non alla luce del sacerdozio che avevano gli ebrei leviti. Vi ricordate, la volta scorsa abbiamo accennato qualcosa. Perché per questo Melchisedec compare all'improvviso nel libro della Genesi. Non ha padre, non ha madre, non ha figli. Si dice di lui soltanto che era sacerdote del Dio Altissimo. Stare attenti che letteralmente in ebraico Melchisedec, proprio il nome Melchisedec viene da Melech, che significa re, e tzaddik, che significa giustizia, quindi letteralmente vuol dire re di giustizia. E si dice che era re di Salem, Salem in ebraico è Shalom, quindi re di pace. Quindi capite che Melchisedec, cioè re di giustizia e re di pace, di chi sarà la figura secondo voi? È una figura di Gesù Cristo, quindi è un personaggio misterioso, appunto ammantato di mistero, ma sacerdote, incaricato di benedire Abramo, quindi di portare la benedizione di Dio. Perché Abramo viene benedetto? Perché Abramo ha cominciato a camminare, ha cominciato a rispondere al Signore, si è mosso e ha già dovuto affrontare alcuni problemi. Vedete come dice, adesso abbiamo saltato un paio di capitoli, cioè di difficoltà con i popoli ostili trovati, non è che è andato tutto liscio, non è che uno parte e fa un cammino dove va tutto liscio, ci sono delle difficoltà da affrontare. Nella misura in cui una persona affronta bene queste difficoltà, incontra la benedizione dell'Altissimo. Quindi alla chiamata, così seguiamo il percorso di Abramo, segue la risposta, alla fedeltà nella risposta segue la benedizione di Dio. No. Alla benedizione segue la promessa. Ah, la promessa che Dio aveva fatto durante la chiamata era generica. Vattene dalla tua terra, dalla casa di tuo, verso il paese che io ti indicherò, benedirò coloro che ti benediranno, coloro che in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Quindi c'era una prima promessa divina, quindi vai dalla tua terra perché io ti darò un'altra cosa, un'altra realtà. Io spero che già mentre parlo e dico queste cose, ciascuno di noi che è abbastanza intelligente sa fare alcune applicazioni esistenziali, no? Ecco, quindi ci sono delle difficoltà che si incontrano subito, si persevera, arriva la benedizione di Dio. Passano un altro mezzo capitolo e Dio si rifà vivo, diciamo così, formulando delle promesse più specifiche, più concrete. Quindi, spero che siate già intelligenti, eh? Quindi, ricordate quando Gesù chiama i discepoli, dice: maestro, dove abiti? Non gli dice dove abita, venite e vedrete. Quindi quando si parte nella vita, noi vogliamo sempre sapere tutto. Sapete quanta gente comincia a venire e dice: allora, padre, io voglio il direttore spirituale, però mi dice: che succede poi? Che devo fare? Che mi fai fare? Tu ti preoccupare, tu ti vuoi convertire e vuoi diventare santo? Sì, allora parti, che dopo Dio, noi vogliamo sapere sempre tutto prima. Questo non è possibile, questo qui, d'accordo? Abramo è una... Ma no, perché non è possibile? Abramo non poteva sapere appena uscito da... Immaginate se avesse saputo: guarda, ti darò un figlio, tu impazzirai di gioia, dopodiché un mese dopo ti chiedo di ucciderlo. Ma allora, noi non dobbiamo sapere tutto, anzi non dobbiamo sapere proprio niente, noi dobbiamo sapere quello che è giusto. Dio ci tiene sempre, piano piano ci fa capire le cose. Questo vale in tutte le cose. Che ci sto a fare io sul pianeta Terra? Qual è la mia vocazione? E dentro la mia vocazione che cosa vuole Dio da me? Non è che si capisce subito, si capisce quando Dio vuole. Non dobbiamo semplicemente stare al suo passo, muoverci, non rimanere statici e proseguire nel nostro itinerario. Allora, andiamo di qua, quindi al capitolo 15, e vediamo qual è questa promessa. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: non temere, Abram, parola magica. Attenzione che Abram si chiama ancora Abram, eh? Io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Ancora stiamo l'omelia che abbiamo fatto questa sera durante la messa. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Ecco, problema di Abramo: io sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram: ecco, a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà mio erede. Grande, la grande croce di Abramo. Non aveva figli, non aveva un erede proprio. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. State attenti, quando Abramo è partito aveva già 75 anni. Reali, non metaforici, ecco. Non solo gli dice che avrà un figlio, quindi la promessa si concretizza, ma c'è dell'altro. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Su questo passo San Paolo, nelle sue lettere, sia soprattutto ai Romani e ai Galati, fa delle prolusioni incredibili. Allora, voi capite che la fede comporta un sacrificio grosso, perché una persona che ha 75 anni e ce n'aveva già di più qui, perché era già passato qualche tempo, quindi non stiamo a 75, stiamo a qualcuno in più. La moglie era già sterile, quindi uno nato da te sarà il tuo, ma non solo uno nato da te sarà il tuo erede, la tua discendenza sarà come, chi è che può contare le stelle del cielo? Nessuno. Ci ha creduto. Allora la fede, poi San Paolo è stato travisato, perché poi vedremo che San Giacomo lo riprende e lo corregge, perché dopo dall'interpretazione balorda del discorso della fede, per esempio, è uscito fuori Martin Lutero. Martin Lutero dice che tutto quello che deve fare l'uomo è credere che Dio è buono e che Dio lo salva, basta. Ma questo non è stato vero per Abramo, perché vedremo tra poco cosa fa Abramo, che cosa aveva già fatto e che cosa fa. Abramo aveva lasciato la terra, Abramo aveva perseverato, Abramo aveva combattuto i nemici. Vedremo che Abramo pregherà il Signore, quindi avrà un ministero sacerdotale in senso ampio. Abramo, vedremo che avrà il coraggio di andare a sacrificare il figlio. Quindi, tuttavia, la fede è un atto sommamente gradito a Dio. Senza la fede non gli possiamo essere graditi, scrive San Paolo, perché la fede è una rinuncia a me, a quello che a me appare evidente, per dare credito ad una cosa, semplicemente per il fatto che Dio l'ha detta e che è totalmente inevidente, anzi, l'evidenza testimonia esattamente il contrario. E quindi c'è un merito grande, perché la fede, pur essendo una virtù teologale, una virtù divina, esige un sacrificio dell'intelletto, perché l'intelletto si muove completamente al buio, non vede nulla, e della volontà, che deve aderire forzandosi a qualche cosa di cui sembra percepire esattamente l'evidenza contraria. Questo è già presente nella vocazione di Abramo. Quindi si concretizza una promessa, la promessa si concretizza, ma la promessa riguarda una cosa umanamente impossibile: avere un figlio in età sterile e avere una discendenza. Ma se voi pensate, la vocazione del, vedete la differenza che c'è tra Abramo e Zaccaria, il padre di San Giovanni Battista. Zaccaria sta esattamente la stessa cosa: la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta gli darà un figlio che sarà un grande, perché il padre di San Giovanni Battista non ci ha creduto. Alla Madonna, il figlio di Dio nascerà da te, il santo, senza concorso d'uomo, ecco l'ancella del Signore. Vedete che la Madonna si situa ovviamente sulla linea di Abramo. La Madonna nel Magnificat si riconosce come il termine ultimo di Abramo, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza. Ricordate quando Gesù fa quel lungo discorso nel Vangelo di San Giovanni, che gli ebrei dicevano: noi siamo discendenza di Abramo. Lui diceva: ma che discendenza di Abramo? Voi fate le opere del diavolo. Dice: se siete discendenza di Abramo, fate le opere di Abramo. Quindi si concepisce, si percepisce la Madonna come il termine ultimo di quella linea eletta che nasce da Abramo e che vive la fede doc. La fede doc, che vuol dire spogliazione di sé e fiducia totale, assoluta in Dio. Guardate che se ce l'avessimo, perché noi, guardate che se voi fate attenzione, perché questo, quando noi facciamo o non facciamo qualcosa, è sempre perché crediamo o non crediamo a qualcosa. Vi faccio subito un esempio sciocco, il primo che mi capita in testa. Perché un sacco di gente, per esempio, non fa penitenza? Perché non ci crede. Perché se tu credessi veramente, che non lo so, domani è mercoledì, se fai il digiuno, quel digiuno il Padre Eterno se lo scrive, d'accordo? Quell'opera ai suoi occhi ha un valore, e per quell'opera ti ricompenserà tanto, punto. Cioè, immaginate se noi vedessimo, se il Padre Eterno ci mandasse un angelo e ci dicesse la ricompensa preparata per un digiuno. Ma noi questo dobbiamo, non possiamo non crederlo, perché se Gesù nel Vangelo ha detto: se avrete dato un bicchiere d'acqua del rubinetto della fontana pubblica, manco di casa tua, che paghi manco 0,0001 centesimo d'acqua a acqua latina, che Dio li benedica, ma manco quello, se non perdi la ricompensa per quello, figurati se fai in digiuno, che farà? Tu non ci credi. Quindi per questo che la fede è una dimensione importante, perché se uno va a vedere fino in fondo, è quasi sempre un problema di fede, rettamente intesa. andiamo avanti. Dopo la promessa, ecco, attenzione, seguite bene questo percorso, arriva l'alleanza. L'alleanza vuol dire che c'è un periodo, vedete, questo è un periodo in cui, come dire, Dio ha preso l'iniziativa, Abramo ha cominciato a muoversi, ha camminato bene, d'accordo? Non ha camminato male, ha perseverato. Anche se, dopo lo vedremo, già aveva fatto il figlio con Agar, quindi ci, dopo lo vedremo. A un certo punto però c'è l'alleanza e il cambio del nome. L'alleanza vuol dire, a questo punto diventiamo amici. Abramo è l'amico di Dio, Nuovo Testamento, proprio attraverso la prova di molte tribolazioni, sempre lettera agli ebrei, egli divenne l'amico di Dio. Questo vale per tutti, E c'è il cambio del nome. Pensate anche alle tappe, qui siamo quasi tutti devoti alla Madonna, la Mim, eccetera, no? Guardate che è la stessa identica cosa, identica. Come si struttura il percorso di crescita mariana? Uno comincia, la Madonna ti chiama, uno dà una prima risposta, un po' di più, un po' di più, poi c'è un momento che affida la vita e può anche aggiungere il nome alla Madonna. Addirittura quando uno diventa terziario francescano dell'Immacolata, quindi cambia il nome, c'è tuttora adesso, cioè assume un nome nuovo. È il simbolo di un sigillo, diciamo così, di una vita che a questo punto viene considerata una vita di amicizia con Dio, cioè tu hai perseverato, sei stato provato per un certo tempo, capite? E Dio fa alleanza, e la Madonna fa alleanza, quindi ti comincia a considerare come un alleato, quindi come un aiutante, come un braccio destro. E andiamo a leggere brevemente, anche se bene, il capitolo 17, qualcosa del capitolo 17. Sta attenti, quando Abramo ebbe 99 anni, quindi ne sono passati 24, è proprio passata una settimana, attenti che Isacco ancora non è nato, 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto numeroso. Abramo si prostra. Quanto a me, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo. In ebraico è Abraham, cioè padre di una moltitudine. Letteralmente significa Abramo. Abraham. Ab è padre in ebraico. Perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. Vedete, il nome designa la funzione, questo è vero per tutti. Gesù che significa? Cioè tutti qua, il nome è una cosa importantissima. State attenti anche ai nomi che date ai vostri figli, e state attenti ai nomi che sceglierete, quanti di voi poi faranno le ultime tappe della consacrazione, ma sono fondamentali, sono, perché il nome designa sempre la funzione. Con me i genitori ci hanno acchiappato, io mi chiamo Leonardo. Leonardo vuol dire forte come un leone, è il nome di una persona che deve avere coraggio nella vita, d'accordo? Una delle poche cose positive che per grazia di Dio mi riconosco, anche se dovrebbe essere un po' maggiore. Ti renderò molto molto fecondo, ti farò diventare nazione e da te usciranno dei re tutto... Da Abramo è uscito Davide, da Abramo è uscito Gesù Cristo, nell'ambito genealogico di Gesù c'è Abramo, c'è. Non so se mi rendo conto di quello che dico, diceva qualcuno. Ecco. E poi gli dà il segno. Qual è il segno? Attenzione, perché le alleanze hanno sempre un segno. Il segno è quello che gli ebrei portano tuttora, no? Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi, la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio, la circoncisione. Gli ebrei tuttora la fanno. È un segno esteriore di appartenenza, sono fondamentali i segni esteriori. Pensate anche a tutte le consacrazioni mariane, c'è sempre un segno esteriore, perché tutto lo devi ricordare. Fai la consacrazione semplice, ti metti lo scapolare, fai la consacrazione illimitata, ti metti la medaglia miracolosa, fai la vestizione, ti metti l'abito, c'è sempre un segno esteriore, sempre. Che è fondamentale perché ricorda a te. Io personalmente penso che non sia senza significato il fatto che il segno scelto per gli ebrei fosse la circoncisione. La circoncisione, sapete tutti quanti che cos'è? È una cosa che appare sul membro maschile. Non credo che sia senza significato. Io ritengo, questa è un'idea mia personale, quindi fateci l'uso che volete, che questa che poteva fare tante cose il nostro Signore. Perché ha fatto la circoncisione? Perché? Perché voleva che i maschi si capissero che appartenevano a Dio con questa cosa un po' singolare, no? Cioè che ogni volta che in qualche modo avevano a che fare col proprio membro, operazione non molto nobile, si ricordavano che appartenevano, proprio quando avevano a che fare con quella. Perché? No, c'è sta poco da ridere. Perché il peccato originale, vi rimando ad altri interventi, probabilmente, per quanto mi riguarda, è stato un atto sessuale. Quindi è proprio quando ha a che fare con quella roba che ti devi ricordare che appartieni a Dio, secondo me. Questa, ti ripeto, sono interpretazione esclusiva, mia diretta e personale. Quindi l'alleanza, diventi amico di Dio, Dio stesso ti cambia il nome designa una missione nuova che tu hai. Quindi capite, la fede ti porta poi a una vita diversa, una dimensione di amicizia con Dio e comporta una missione che tu devi compiere perché Dio lo vuole da te. E avrai dei segni esteriori che ti ricordino quella che è la tua missione. Torniamo sempre indietro. E passiamo al secondo punto, il cammino di Abramo. Allora, prima dell'alleanza, perché così ci viene a tutti quanti un pochino di consolazione, c'era stata la tentazione che ci abbiamo tutti. Dio ti promette una cosa e tu la fai come ti pare, a te, non come vuole lui. Stamattina, mo ve lo trovo subito. Perché qui c'è tutto, per grazia di Dio. Stavo meditando su alcuni scritti di San Pio. Speriamo che riesco a ritrovarli. Perché a un certo punto San Pio dice una grande cosa. La cosa che dice, ve la volevo leggere testualmente, è questa. È che tu, ma tu guarda, fai veramente la volontà di Dio quando fai quello che Dio vuole, eccolo qua, come Dio vuole. Guardate, ve lo indico, Dio si serve soltanto quando si serve come egli vuole, non come vuoi tu. Particolare molto importante. Quindi andiamo a vedere i guai combinati da Abramo. Torniamo indietro. E qui sono sempre le donne che combinano i guai, perché non è colpa sua, è stata colpa della moglie. Ecco. E certo gli ha detto lei, Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana, non c'aveva nient'altro da fare. Sapete che i discendenti di questo figlio di Abramo sono gli arabi, da cui sono venuti i musulmani. Cioè, e delle donne, Eva, tra Eva e Sara, dico. Mo dico, se si fossero inventati la televisione, amici, stavano a vedere, era peccato meno grave, ecco. Dice, ma perché non vai? Dice, Sarai disse ad Abramo, ah, il Signore mi ha impedito, io non ce l'ho, dato che ti ha detto che te deve venire il figlio, stiamo aspettando che te lo do io, si è fatta notte, e dice no, quindi facciamo così, te l'ha detto lui, tanto quindi sarà questo, sarà, no? Perché adesso sono terribili queste cose, fate un po' di applicazioni esistenziali, cioè quando noi troviamo gli accomodamenti, cioè Dio ha detto no, però sì, questo ve lo dico io da prete, tu dici a un'anima fai così, sì però sì no, però lo facciamo con guai, no? Perché questa ha fatto un guaio, questa, perché che ha fatto fa Ismaele, ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole, unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Abram ascoltò l'invito di Sarai, perché gli uomini ascoltano sempre le donne, questo è il guaio, sempre l'ascoltano, sempre, questo è il guaio, per questo che le donne devono essere santi, perché gli uomini fanno tutto quello che dicono le donne, questo è il problema, ve lo dico io, ve lo dico, ho detto che quando c'avevo la fidanzata, quando volevano, ma questo è vero pure in piano soprannaturale, se voi volete ottenere una cosa da domine Dio, tornate alla Madonna, è vero pure nel piano Dio, ascolta la Madonna, quindi per questo che il rosario è così potente, perché diceva prega tu, prega per noi, io tanto a me non mi sente, perché io se lo dici tu, è vero pure per il Padre Eterno, quando ero fidanzato andavano sempre da lei, dice diglielo tu a Leonardo, perché ero sempre un po', se non dobbiamo fare così, dice però diglielo tu. E lei comincia a venire con quelle, Aleino, io no, la prima cosa era subito no, ma no, ma va, e alla fine diceva tutto quello che diceva lei, tutto, ecco, per questo che le donne devono essere sante, e che il Padre Eterno perde sempre un sacco di tempo con le donne, perché diventate sante le donne, è fatta, sono tutti santi, vi ricordate il proverbio africano? Se educhi un uomo hai educato un individuo, se educhi una donna hai educato una nazione. Dicevo, c'è scherzo, ma è così, eh? I guai sono venuti per Eva, e quella che l'ha fatto un'altra Sarai, ha fatto dubitare di fede Abramo e ha fatto nascere Ismaele. Capito? Quindi a causa dei cattivi consigli di sua moglie, lui era tanto innamorato, ecco, Abramo c'ha un, come dire, un passo indietro, vedete, cioè possono esserci dei piccoli incidenti durante il cammino di fede, d'accordo? Quindi la fede come cammino, prevede come varianti tranquillamente possibili dei bug, quindi dei momenti di defiance. Poi lo finite di leggere voi, eh? Quindi, comunque, va con Agar, la schiava, e nasce Ismaele. Ecco, poi vedremo però che a Domine Dio non è che gli sta tanto bene sta cosa qui. Perché al capitolo 18, dopo aver detto l'alleanza, torna ad Abramo e gli manda, vedete questa icona che sta qui, sono i tre altri personaggi misteriosi. Abbiamo visto Melchisedec. Adesso compaiono i famosi tre misteriosi personaggi alla quercia di Mamre. Vi dico subito che dietro questi tre misteriosi personaggi i padri hanno visto una prefigurazione della Santissima Trinità in persona, perché anche questi Melchisedec compare e scompare tre versetti, non si parla più di lui, lo cita il Salmo 110, il Salmo di Davide, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec, basta, dopodiché scompare e si ritrova direttamente nella lettera agli ebrei, è finito Melchisedec, non si sa nient'altro di lui. Sti tre addirittura vengono citati qui e poi scompaiono. Adesso li andiamo a leggere. Cosa gli dice attraverso questi tre personaggi? Ecco, gli ricorda che non aveva capito tanto bene. Allora, 17 e 18. Il Signore, vedete, poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, per questo che ci hanno visto. Il Signore con la S maiuscola vuol dire che nel testo ebraico c'è scritto il nome di Dio, c'è scritto Yahweh. Non è, quindi è il Signore in senso forte, è lui, ecco, il nome proprio di Dio. Mentre egli sedeva all'ingresso della tenda, egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Apparve il Signore, tre uomini in piedi presso di lui. Gesù si prosta, Abramo, scusate, si prostra. E c'è stata una scenetta, adesso saltiamo, qualche gli dice adesso vi lavo i piedi, eccetera. Va bene, fai tutto quello che vuoi. Andiamo al versetto 9, qui dice: poi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? E rispose: è là nella tenda. E riprese: tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio. No, Agar. Quindi c'è un ripasso, dice: guarda che allora. Quindi quando noi facciamo sempre le applicazioni di rimando, no? Vogliamo servire Dio non come vuole lui, ma come vogliamo noi. Cioè lui dice: fai questo così. Dice: no, io questo lo faccio, però colà. Che è quello che ha fatto Abramo. Ha detto: che mi devi dare un figlio e una discendenza. Ah, me l'hai detto tu. E poi non ci penso a farlo io. Lo faccio qua. Cara. Dice: no, questo ti fa come dico io, non come dici tu. Ci viene qualche tirata d'orecchio, poi il Signore la dà attraverso il padre spirituale. Dice: non è così, eccola, e quindi rimettiti in carreggiata. Attenti che il filo diretto col Padre Eterno oggi non si ha più, c'è sempre un filo mediato, c'è questa piccola differenza. E vedete, a un certo punto, vedete perché Isacco significa in ebraico risate, perché intanto Sara stava ad ascoltare, vedete le donne, origliava dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, vecchi, e dice addirittura era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne, vedete che è un modo elegante, da mo che era cessato, ecco. Allora Sara rise dentro di sé, rise, vedete, si è fatta una bella risata, dice: ah sì? Amo, dobbiamo riandare ai bollenti spiriti? Dice: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio. E guardate che la Bibbia è anche ironica in alcuni modi, dice: a 100 anni ci rimettiamo a fare la commedia, perché 100 anni c'hai Abramo. Ma il Signore disse, oi, perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? Stai attenti, c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato che ne ho da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Vede, le promesse di Dio poi si compiono nonostante noi a volte. Allora Sara negò, guardate i paragoni col peccato originale, sono sempre uguali queste donne, eh? Ah no, io non ho fatto niente, non ho riso, perché aveva paura, perché il nostro Signore si è arrabbiato, ma gli disse: sì, è proprio riso, ecco, quindi, sono affari tuoi. Ecco, subito dopo, e adesso lo vedremo subito, c'è un altro episodio. Subito dopo, che è la distruzione di Sodoma e l'intercessione di Abramo. Allora Abramo è diventato l'amico di Dio, perché al capitolo 16 era stata stretta l'alleanza tra Yahweh ed Abramo, nonostante le piccole defaianze. Abramo diventa l'amico di Dio, adesso a Sodoma cominciano a fare peccati più piccoli di quelli che fanno oggi, perché oggi li fanno almeno a Sodoma, insomma. Sodoma non c'è più neanche un filo d'erba lì dove si trovava, lo leggete voi poi per conto vostro. Ci sono due capitoli di quello del braccio di ferro tra Abramo e Yahweh. Leggiamo qualcosa, no? A un certo punto, siccome ci stava Lot a Sodoma, che era il nipote, Abramo si è preoccupato, perché a un certo punto, adesso lo vediamo, Dio dice: questi mi hanno arci stufato, adesso facciamo secchi. Allora, il Signore diceva, guardate, dagli amici di Dio, e devo io tenere nascosto ad Abramo, versetto 17, quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti io l'ho scelto perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui ad osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso. Disse allora il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. immagini antropomorfiche, voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me, lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là, sono sempre quei tre che stavano a Mamre, e andarono a Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Allora Abramo si avvicinò e disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Se forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai quel luogo per riguardo ai 50 giusti che si trovano? Insomma, continua. Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. E poi Abramo riprende. Dice: vedi come ardisco parlare al mio Signore, ma forse a quei 50 ne mancheranno 5. E poi continua, no? Adesso non lo leggiamo tutti, dice. Poi ce ne mancano altri 10. Poi ce ne mancano. Alla fine, mi ricordo, dice, alla fine ce ne dovrebbero dovuti essere 10. Il problema è che a Sodoma 10 non c'erano. E quindi al capitolo 19 scende il fuoco dal cielo, episodio molto edificante, perché c'era Lot a un certo punto, viene avvertito Lot di uscire. Vanno lì quei famosi tre uomini, gli stessi che stavano lì, versetto 12, chi hai ancora qui, il genero, siamo al capitolo 19, i tuoi figli e le tue figlie e quanto è in città, falli uscire da questo luogo, perché noi stiamo per distruggere questo luogo. Il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande, e grande il Signore ci ha mandato a distruggerli. Allora, quando apparve l'alba, gli angeli fecero premuro a Lot dicendo: su, prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo. Lot indugiava, insomma, alla fine fuggi e non guardare indietro. E non fermarti per la valle, fuggi sulle montagne per non essere travolto. Andiamo avanti ancora. Attenzione al grido, dice: vattene e non guardare indietro. È un gesto molto importante, cioè lui sta uscendo da un posto di peccatori, è l'immagine di chi si allontana dai peccatori e non deve guardarsi indietro. Tentazione dei neoconvertiti, la prima che manda il diavolo, di guardare indietro quello che tu hai lasciato. Vedremo poi Israele la stessa cosa, quando esce dall'Egitto, sta sempre a pensare alle cipolle e ai cocomeri della terra d'Egitto. Allora che succede? Escono, e invece la moglie di Lot si gira. Versetto 24, quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore, distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti della città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Episodio: statua di sale. Sapete che significa? Che se una persona si può prendere dalla nostalgia che guarda indietro, e succede ogni tanto, torna indietro e è finita. State attenti, è la prima tentazione che il diavolo fa a chi intraprende un cammino di fede. Non possiamo fermarci ancora, se facciamo troppo tardi. Andiamo avanti. Facciamo scomparire tutte queste cose e andiamo all'ultima, la prova di Abramo. Vedete quel celebre, quell'icona molto bella, l'angelo che tiene fermo. Adesso questo episodio lo conosciamo tutti. Al capitolo 21 viene descritta la nascita di Isacco. Capitolo 21, andiamo a vedere rapidissimamente, quindi stiamo abbastanza avanti. Allora, il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, vedete, nel tempo che Dio aveva fissato, che è lui che decide. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato e che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco, prima circoncisione, quando questi ebbe 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Anche Gesù è stato circonciso l'8° giorno, tutti gli ebrei sono circoncisi l'8° giorno. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara, ecco, disse: motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Isacco significa oggetto risate. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me, come lei aveva riso prima. E poi disse: ma chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Quindi, umiliata nella sua poca fede, a grande gioia, ormai la storia di Abramo sarebbe finita. Quindi le promesse si sono adempiute. Nasce Abramo, capitolo seguente. Tenete presente, quando Abramo, leggete la storia, Dio lo chiama e lo manda nella terra di Canaan, gli dice: guarda, sta attento quando entri lì dentro, tu entri lì dentro come Abramo, non fare le cose che fanno quelli che stanno, perché lì c'erano tutte quante le popolazioni cananee, pagane e idolatriche, che facevano tra gli altri abomini sacrifici umani. E Dio gli ha detto: non ti metterò a fare queste cose, non ti mischiare con loro. Capitolo 22, penso che sia celebre, però qualcosa dobbiamo leggere, il sacrificio di Isacco. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo rispose: ecco, mi riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Questo monte è il monte, secondo la tradizione, dove è sorto il Tempio di Gerusalemme. Purtroppo adesso ci stanno gli islamici, che dentro una delle due moschee e conservano proprio la pietra dove si ricorda il luogo dove Abramo stava sacrificando il figlio. Quindi, su quel monte è sorto poi il Tempio di Gerusalemme. Tenete presente che Abramo abitava ad Hebron, ci dice il libro della Genesi, che non è molto, proprio molto, molto distante da Gerusalemme. E qui praticamente Abramo prende parte. A un certo punto Isacco, qui ci sono tutti quanti i commenti degli ebrei che sarebbe molto interessante leggere, si rivolse ad Abramo, versetto 7, e disse: padre mio, rispose: eccomi figlio mio. Dice: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Sarete un padre, un figlio? E Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Vedete la fede di Abramo e anche il modo con cui copre davanti al figlio, eccetera eccetera. Poi Abramo colloca la legna e ha preso il coltello, stava pronto col coltello in mano, l'avrebbe ucciso suo figlio, e l'angelo del Signore, abbiamo visto l'icona, lo ferma e dice: fermati, ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato il tuo figlio e il tuo unigenito. Abramo alzò gli occhi e vide una rete impigliata con le corna in un cespuglio, andò a prendere la rete, eccetera. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, la traduzione nuova, ma la traduzione antica era migliore, il Signore provvede, perciò oggi si dice sul monte il Signore provvede. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo e disse: giuro per me stesso, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizione e renderò molto numeroso, vedete, c'è il rinnovo della promessa, la tua discendenza, eccetera eccetera. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra perché tu hai obbedito alla mia voce. Vedete che la fede chiede l'obbedienza, altro che credi punto e basta. L'obbedienza eroica, provate a immaginare, no? Adesso dopo concluderemo con qualche punta. Voi vi rendete conto? Sacrificio di un figlio, figlio promesso da Dio, nato miracolosamente, contro la proibizione di fare un sacrificio umano, e sarebbe stata la distruzione. Questo figlio mi ha dato il padre, ma mi ha detto che doveva avere una discendenza da me, boom, è nato via a 100 anni, adesso me la nasce un altro. Cioè, provate, ci sono stati scritti fiumi di inchiostro al commento del sacrificio di Isacco, ma una cosa enorme. Il capitolo 25 sia la morte di Abramo. Quindi, in conclusione, tirando un pochino le fede, la fede di Abramo, tirando proprio alcune rapide conclusioni, la fede l'abbiamo visto, è una chiamata di Dio, un dono grandissimo, però per questo si dice che la fede è principalmente un dono, la fede è una virtù infusa col battesimo. Non si può neanche parlare di fede se Dio non prende l'iniziativa, non parte lui e non chiama. La fede è anche un cammino, Abramo non ha fatto e non ha realizzato tutto e subito. Ha avuto un cammino fatto di tappe progressive, graduale, fatto di qualche piccola defaglianza e culminante nel momento supremo, che è stato quello della prova. E tutti saremo provati, tutti quanti, perché è facile che la fede, hanno avuto tanto la fede, si prova nelle circostanze avverse, quando e tutti saremo provati, nessuno escluso. La fede esige le opere. Alcuni, San Pietro stesso nelle sue lettere dice che travisavano gli scritti di San Paolo già ai tempi suoi, dice proprio nelle sue lettere, dice il nostro caro fratello Paolo descrive tante cose, dice però alcune sono difficili da capire e gli empi le travisano per la loro perdizione, perché già un sacco di gente ha cominciato a dire dal momento che San Paolo tesse l'elogio della fede nelle lettere romani ai Galati, la fede come fiducia, dice vedete Abramo è stato grande perché si è fidato di Dio contro ogni speranza, non perché aveva compiuto le opere della legge, però tenete presente che quando San Paolo fa questo discorso non parla dei 10, parla delle opere, perché i farisei avevano 613 precetti e pensavano che facendo tutte quante quelle sciocchezze e tutti quei cavilli tu diventavi santo, non serviva assolutamente a nulla, d'accordo? Quindi San Paolo fa una polemica di questo genere, non certamente per escludere le opere che si devono fare, perché la fede di Abramo è fatta di opere eroiche. Allora San Giacomo riprende alcune cose, state attenti, ma non lo vedete Abramo che fa? Abramo è andato sul monte a sacrificare il figlio, quindi altro che la fede, quella è un'opera eroica che ha compiuto, quindi c'è questa dimensione necessaria della fede. Poi la fede viene provata, sempre. Tutte le persone sono, nessuno escluso, nessuno, quindi il Signore permette che sia il diavolo stesso a volte a provarci, Pensate alla Madonna sotto la croce, pensate che non sia stata provata. Quindi ci sono degli eventi che mettono in scacco e che richiedono di andare avanti continuando a credere, continuando a fidarsi contro ogni evidenza e contro ogni speranza. E non tutti la superano queste, Per questo che molti sono chiamati e pochi gli eletti. Anche Gesù, i discepoli di Gesù, abbiamo fatto l'anno scorso il Vangelo di Giovanni, dopo il discorso alla sinagoga di Cafarnao, ha perso un autotreno di discepoli, erano tanto è vero che ha detto a Pietro, andate via pure voi, e Pietro gli risponde, da chi andiamo Signore? Ecco. La fede rende amici di Dio, Abramo era l'amico di Dio. E tutti noi dobbiamo puntare nel nostro piccolo a vivere questa dimensione, l'amicizia con Dio. Siano lodati Gesù e Maria.